dueño de mi grande amor. Él es susurras bella, oh Madonna. Un cuore está morendo, pero una donna. Stringilo forte a te. Faccia lui, non dirgli niente, dille soltanto che era un vagabondo. Il cuore non mi regge o mia chitarra, nessuno mi vuol bene, tu solo al mondo. Svegliati, oh Madonna, un cuore sta morendo per una donna. Stringilo forte a te con una scusa. Vado con la chitarra e chiedo scusa. Oh Madonna, un cuore sta morendo.